Segunda Puntata. Buongiorno e benvenuti alla seconda puntata di Bonjour Bidon. Io sono Angelo Trofa. Oh, hai detto il tuo nome bene oggi. Sì, oggi ce l'ho fatta. Passi in avanti, importante. Tu piuttosto, chi sei? Io sono Leonardo Piccione, ciao a tutti, buona domenica. Buona domenica a tutti, siamo a Cagliari, siamo in diretta e in questo momento sta arrivando il tempo definitivo di Bardet. Sì, come? Sì, esatto, in sovraimpressione potete leggere il tempo di Bardet. Adesso? Cioè... Sì, è arrivato ieri sera, ma il tempo lo scopriamo adesso. Ah, perché questa è l'efficienza del Tour de France, no? Sì, no, ma è un'innovazione di noi del Tour, che abbiamo un sistema tutto nostro, è bella la diretta ma senza i tempi, soprattutto per la cronaca. Arrivano il giorno dopo addirittura. Sì, sì, sì. Ah, fermi tutti, sta arrivando il tempo di Quintana. Quintana è arrivato. Io sì, pensavo sì, che l'arco crollato l'anno scorso fosse l'apice dell'organizzazione. Invece no, stiamo cercando di fare un trittico. Dopo l'arco e il Mont Ventoux ci siamo inventati un nuovo sistema alternativo di cronometro, ma è sempre il Tour. E il Tour è tutto. E viva il Tour e viva la Francia. Allè, incominciamo! Bene, come sta andando il tuo soggiorno a Cagliari, Leonardo? Starebbe andando benissimo se non fosse per i gabbiani che al mattino mi svegliano. Cioè stamattina alle 7:15 c'era questo stormo di gabbiani nervosissimi che ululavano, cioè i gabbiani ululavano. Sì, sì, qui a Cagliari il tema dei gabbiani è un tema estremamente presente. No, tra l'altro io mi ricordo questo servizio che c'è su YouTube, bellissimo, di Videolina, credo, di una signora che era ostaggio di 3 gabbiani. Cioè la giornalista diceva, un'anziana signora di Cagliari è ostaggio da giorni di 3 gabbiani. Ma in realtà è Cagliari che è ostaggio dei gabbiani. Sì, così. Sì, sì, è tutta Cagliari. È un tema importantissimo. Capita di incontrarli tra l'altro in mezzo alla strada. Quando c'è vento ci sono gabbiani che prendono... Tra l'altro stanno per prendere tutti i posti di potere questi gabbiani. Ma è il Mediterraneo, così. Lo sai che il Mediterraneo fa strani effetti anche ai corridori? Ieri leggevo questa storia del Tour del 1950. Era la tappa da Tolone a Mentone e si costeggiava il Mediterraneo, faceva caldissimo, era il 29 luglio, i corridori avevano addirittura delle foglie di cavolo sulla nuca per rinfrescarsi, pensa un po'. Però quando arrivarono nei pressi di Saint-Tropez, sai cosa fecero? Lasciarono le biciclette sulla spiaggia e si fecero un bagno. Ovviamente il patron del Tour, Jacques Godet, non apprezzò tantissimo questa iniziativa dei corridori, la definì un'esibizione carnevalesca. E per molti anni il Tour non sarebbe più passato nei pressi della costa del Mediterraneo perché per il rischio dei corridori che andassero a farsi un bagno in mare. Beh, effettivamente con le foglie di cavolo e il bagno al mare era abbastanza carnevalesco. Diciamo, un clima, il giorno nel quale questi qui si sono buttati nel mare, estremamente diverso a quello di Düsseldorf di ieri. Abbastanza diverso, è stata una giornata terribile dal punto di vista meteorologico. E insomma, questo è il secondo matrimonio tra la Germania e il Tour de France e vogliamo intuire i segni del tempo, mi sembra che gli auspici non siano buonissimi. Ieri ha piovuto un sacco, sono caduti diversi corridori, soprattutto 2 corridori che si sono ritirati, Yonis Agirre e Alejandro Valverde, ma per parlare della tappa di ieri abbiamo... È il momento di avere in collegamento telefonico il nostro super esperto, il nostro super testimone, come nel maxi processo, abbiamo niente meno che Filippo Cautz da Milano. Filippo? Bonjour, Bidon. Bonjour, bonjour a te. Come va? Va bene, va benino, insomma, la tappa di ieri ha avuto alti e bassi, ma vorrei subito spezzare una lancia a favore dei cronometristi che invece tanto già sono stati criticati. Noi ci lamentiamo da tempo che il Tour diventa noioso, quando ci mettono delle invenzioni così che lo ravvivano ci lamentiamo, non ha senso. Sì, no, infatti ragione, io sono a favore, cioè io sono, mi sento già organizzatore del Tour. Tu tra l'altro sei un grande fan dei cronometristi, se non sbaglio. Sì, moltissimo, tra l'altro secondo me sono stati generati tutti nella stessa maniera, forse in provetta, perché hanno tutti la stessa faccia neutra, guardano un tablet come un bambino di 3 anni incantati e poi c'è tutta una questione, un esercizio, quello delle mani. Io vorrei essere assunto dalla società cronometristi mondiale per cercare insieme di capire se riusciamo a fare il contrarovescia con le mani senza risollevare il pollice al 3. Giusto, perché tu dici... Perché loro fanno 5 per tutta la mano, 4. Il 4 abbassano il pollice, per il 3 lo rialzano. A me questa cosa un po' mi disturba. Questo è un cruccio che ti disturba. Sì, dovrebbero riuscire a togliere un dito alla volta piuttosto che risolvere. È interessante questa teoria. Sì, no, è un tentativo. Cioè, sto cercando di migliorare il mio Tour de France. Pardon, chiamami. Filippo, invece, Valverde, abbiamo detto, tristissimo, come è iniziato e finito il suo tour. Come cambia il tour senza Valverde? Beh, da un punto di vista delle dinamiche di corsa probabilmente non cambia più di tanto, perché Valverde non è certo uno che è un drago della tattica, come ben sappiamo. Cambia, secondo me, da un punto di vista della tranquillità e dell'ambiente che si respirerà in casa Movistar, perché Quintana ad ogni modo ci contava sulla presenza di Valverde. Quintana è molto, come dire, affezionato, quasi debitore a Valverde, l'abbiamo visto in altri anni, anche criticabile da certi punti di vista, dal mio nostro, del suo comportamento rispetto a Valverde, ma sicuramente gli avrebbe fatto molto comodo avere un capitano con il carisma simile al suo fianco, e uso il termine capitano perché il capitano in strada fosse poi certo. No, io credo personalmente che il tour con Valverde abbia perso una delle maggiori fonti di incertezza, intanto per la questione interna alla Movistar, poi in generale perché è un corridore da cui potersi aspettare di tutto in qualche modo. E in generale, con il ritiro di Valverde e con poi le prestazioni dei favoriti di ieri, credo che la giornata di ieri abbia assolutamente riportato Chris Froome nella posizione di super favorito, perché la sua squadra è andata fortissima, adesso ne parleremo, lui è andato fortissimo, i suoi avversari così, e uno dei principali avversari, uno dei più fantasiosi, si è ritirato. Filippo, domanda da super testimone tecnico, sei pronto? La domanda è, questa la potrebbero fare anche sulle vere trasmissioni giornalistiche, la domanda che ti faccio in maniera giornalistica è: Filippo, secondo te chi ha vinto e chi ha perso la cronometro di ieri? Allora, secondo me l'ha vinta Geraint Thomas, che dedica i cronometristi, che non ho capito bene cosa hanno fatto a Thomas, hanno fermato il cronometro quando è passato sul traguardo. Sì. Mentre in alcuni casi lo fermavano 1 o 2 chilometri dopo, alcuni sono ancora in corso. Alcuni sono in corso e arriveranno durante la nostra puntata. E per cui credo che l'abbia vinta lui, anche da un punto di vista di dinamiche esterne alla Sky, ma questo ne parleremo, anche perché io adesso però leggevo grandi dichiarazioni pure chiuso e chissà che altro, mi sembra un po' presto dopo 14 km sotto la pioggia. Chi l'ha perso? L'ha persa Valverde, purtroppo. No, l'ha persa Valverde, io aggiungerei Richie Porte che ieri ha perso 35 secondi da Froome e 47 da Thomas, e in una tappa in cui era potenzialmente tra i favoriti addirittura per la vittoria di tappa, ha perso 35 secondi dal suo principale avversario. Ha detto che è stato prudente, non ha voluto rischiare, come molti altri, anche Contador, anche Bardet hanno dichiarato che hanno preferito prendere le curve in modo sereno e rilassato per non rischiare di fare la fine che purtroppo ha fatto Valverde. È stato molto prudente Port, però va anche detto che non era certo un percorso, una cronometro che si adattasse a Richie Port, che non è un mangiatore di raccontoni come quelli che gli sono arrivati davanti, per cui non mi stupisce. Forse poteva lasciarti andare un po' di più, forse visto come sono andati altri. Valverde è caduto perché abbiamo visto come l'ha presa quella curva. Certo, certo. Stava correndo una crono come se stesse giocandosi un mondiale in quel momento. Certo. E per cui forse Porto potrebbe anche beneficiare di questa prudenza. E citi Contador, ecco, un altro che secondo me l'ha persa la crono. Ieri sto Contador, io ho visto un Contador proprio bruttino in corsa ieri dal fuoco, poi c'è stato fatto vedere. Sì, anche lui, anche lui. Penso che le tante cadute che ha avuto negli ultimi anni lo condizionino un po' in queste situazioni. Tra chi ha vinto invece vorrei citare subito e scombinare le carte Tony Gallopin, è andato bene ieri. Che si è stato alla Lanterna Rouge riuscendo a prendere ben 3 minuti di distacco, 14 km di cronometro. E non è finito fuori tempo massimo. Non è finito fuori tempo massimo, credo sia caduto 2 volte e in aggiunta a tutto questo ha dichiarato che ieri mattina alle 5 gli sono entrati i ladri in casa. Anche, cioè la giornata ideale di Tony Gallopin ieri al Tour de France. E invece un altro che non è andato bene e ha detto che di essere delusissimo è Tony Martin, ovviamente avrebbe voluto vestire la maglia gialla in casa, in Germania, ha detto che negli ultimi 3 chilometri non ne aveva più, abbiamo visto con che faccia è arrivato, era stravolto e ci dispiace, però ha detto che ci proverà durante il tour, quindi questo ci fa piacere. Ultima battuta sulla tappa di ieri, prima di parlare di Aru, a cui dedichiamo come sempre una nostra rubrica, su Geraint Thomas e la Sky in generale, perché adesso qualcuno pensa che Froome e Thomas potrebbero diventare avversari in casa, nella stessa squadra. Cioè Thomas potrebbe non essere così tanto disponibile come negli altri anni a fare il gregario a tutti gli effetti di Froome. Cosa ne pensi, Filippo? Penso che la possibilità ci sia, però è tutto da vedere. Thomas ha fatto una preparazione mirata al Giro d'Italia e sappiamo com'è andata a finire purtroppo per lui, per cui da qui a correre per 3 settimane a questi livelli è tutto da vedere. Di certo Thomas ha un'età che insomma qualcosa lo deve ottenere in più di quello che ha fatto fino ad oggi, una onoratissima carriera, e se si trova lì non credo che tirerà i freni. No, ha detto oltretutto che, come ben sappiamo, Froome è una cosa che non regge, sono degli altri galli nel pollaio nella sua stessa squadra. Ci ricordiamo le sceneggiate che fece nel tour vinto da Wiggins. Certo. E insomma, non aggiunge serenità, però magari adesso vediamo già la quinta tappa da parte del Gil, probabilmente potrebbe essere uno stimolo in più per Froome per fare qualche frullata più di quelle che si è segnato nel suo file Excel che deve fare nel corso del tour per dare qualche secondo a Thomas. Questo potrebbe essere una lettura possibile. Come Sky, volevo aggiungere un altro vincitore della tappa di ieri. Scusatemi, sì, sono in ritardo, ma mi stavo... Siamo in ritardissimo, però vai. Però diciamo soltanto grandissimo Matteo Trentin. Grande Trentin, grandissimo. È arrivato quinto e poi dopo magari lo rinomino. Va bene. Parliamo invece del corridore che noi seguiamo in maniera speciale, con particolare calore e interesse, anche perché vi ricordo che siamo a Cagliari. Il nostro Fabio Aru. Come sapete, noi abbiamo una rubrica apposita nella quale cerchiamo di conoscere delle espressioni in sardo che possono definire l'andamento di Aru all'interno nel Tour de France. Oggi Elio Tour Martemalle, che stiamo per sentire, ha un consiglio che valeva per ieri ma vale anche per oggi. Quindi lanciamo la nostra rubrica Il Sardo in Sardo. Dico a tutti gli atleti in gara quello che diceva mia nonna quando si entrava in casa e c'era la cera sui pavimenti: entrai, non ti maise, ma attenzione che zallisciinara. Entrate, non abbiate paura, procedete tranquilli, ma attenti, si scivola parecchio. Dunque, il tema della caduta anche nel proverbio, anzi nel modo di dire della nonna di Elio Tour Martemalle. Tua nonna No, io non sono, non era sarda mia nonna. Sallisciinara è lo scivolone in sardo, quindi diciamo che il tema del sallisciinara è stato importante ieri. Diciamo che ieri Aru, come anche altri uomini di classifica, è estremamente prudente. Sì, prudente, ma è andato bene comunque nei suoi standard. Ha perso 40 secondi da Froome, e quello che poi si aspettava tra i 20 e i 30, forse nelle previsioni più ottimistiche, però 40 non è un ritardo assolutamente preoccupante. Assolutamente, diciamo che sono tutti lì, come direbbero su altre trasmissioni, in una manciata di secondi. Una manciata di secondi, sì. È importante dire alcuni temi fissi delle parole che abbiamo già sentito. Adesso, visto che la tappa di ieri è andata, molti riscontri, abbiamo una nuova rubrica, esattamente i 5 T della corsa. Come la tappa di ieri è stata seguita su Twitter, sui social media, quindi... 5 T dalla corsa. Ma questo stacchetto ce lo avremo per forza sempre. È obbligatorio, è proprio una cosa che deve esserci. Caro Leonardo, non fare il polemico. Lo stacchetto c'è, è bellissimo, è quello che la gente vuole. Se vuole la gente, allora va bene. E allora, questa rubrica noi proveremo anche a mostrarvi dei tweet o delle immagini che provengono dai social network, e quindi noi in genere non trasmettiamo video, le nostre facce non le vedrete mai, anche perché non vi perdete nulla, però magari in questo momento, se siete davanti al computer, potete guardare le foto, le immagini di cui stiamo parlando. La prima è quella ovviamente di Valverde, che ha twittato dall'ospedale di Düsseldorf dicendo che è stato operato alla rotula, perché si è fratturato la rotula e la stragalo anche. È andata malissimo purtroppo, e sta bene, l'intervento è andato bene, e siamo contenti di questo ovviamente. Poi andiamo avanti con la seconda immagine. Questa è molto interessante. Abbiamo Dan Lamusette, che è uno degli account Twitter che ci piacciono di più e che ci fa vedere la faccia tiratissima di Aymar Zubeldia della Trek Segafredo, e dalla musetta dice 63 anni Aymar Zubeldia parte per il suo 37esimo Tour de France. È uno che mi ricordo da sempre, Zubeldia. Cioè, forse... Era vecchio quando faceva il gregario di Iba Maio, era, sì, sembrava già quarantenne, invece ce l'ha adesso 40 anni. Quando dici Iba Maio mi viene in mente tutto il passato, il Crystal Ball e io bambino che chiedo 1000 lire a mio nonno. Ma dai, eri bambino nel 2005. Sì, sono molto giovane. Sei molto giovane. Andiamo avanti. Andiamo con avanti. Immagine. C'è, ah, questa è bellissima, sempre i nostri amici di Dalla Musette che propongono il meraviglioso Pierre Latour, campione nazionale francese a cronometro, come bandiera, cioè propongono di appendere Pierre Latour sui Campi Elisi al posto delle bandiere nazionali francesi. È bellissima la sua divisa, siamo appassionati, come vi abbiamo detto già ieri, delle divise dei campioni nazionali, ne parleremo nei prossimi giorni. Questa di Pierre Latour a cronometro è forse tra le più belle in assoluto. Passiamo proprio a un tweet di un corridore. Questo è Jakob Fuglsang, che come sapete nel Tour ci sono tanti momenti morti anche per i corridori, e Fuglsang ci mostra una delle cose che farà nel suo tempo libero. Ha un account, un tablet e un account Netflix, e ovviamente in tema di colori del giallo del Tour lui guarderà Orange is the New Black. Io speravo che lui guardasse Twin Peaks, ma invece ha scelto... Ma tu lo guardi ora? No, questo no, questo non lo guardo, anche se mi dicono essere meraviglioso. Te le guardi tutte tranne questo. Tranne questo, tranne questo. Si offenderanno quelli Fuglsang o Fuglsang. Andiamo avanti con un altro bel tweet. Questo è molto bello, questo è Lars Bak che spiega a Tish Benoit, il suo compagno di squadra esordiente belga al Tour de France, cos'è il Tour de France. Gli ha detto: il Tour de France è come uno sprint sul vecchio Quaremont, solo che avviene ogni 10 minuti, è come se ci fosse un Ode Quaremont ogni 10 minuti. Questa è una definizione di Tour che mi piace molto. E infine l'ultimo tweet, che per noi genitori è gente dal cuore tenero. Per noi, per te, genitore. Sì, per me genitore, gente dal cuore tenero, fa tenerezza, perché è quello di Mark Cavendish. È quello di Mark Cavendish che corre al Tour de France con due scarpini che, con sopra le impronte delle sue figlie, che si chiamano Frey una e Dalila l'altra, credo. Cavendish oggi c'è al Tour, era in dubbio la sua presenza, c'è e oggi potrebbe essere tra i favoriti, perché oggi c'è un primo arrivo dedicato alle ruote veloci. Cavendish che vorrebbe prima o poi arrivare al record di Merckx delle 34 vittorie al Tour de France. Sì, ha detto che pensa di batterlo, ma non quest'anno. Quindi... chissà quando. Ma appunto, parlando di Cavendish e delle volate, passiamo alla rubrica che ci racconta come sarà la tappa di oggi. Finalmente qualcuno serio. Sì, abbiamo il nostro Pietro Pisaneschi che ci racconta la tappa che verrà. Buongiorno a tutti da Pietro Pisaneschi e benvenuti alla presentazione della seconda tappa di questo Tour de France 2017. Dopo la partenza con la cronometro di Düsseldorf, vinta da Geraint Thomas, che dunque veste anche la prima maglia gialla di questo Tour, la Grand Boucle prosegue la sua corsa fuori dai confini francesi con i 203 km che porteranno il gruppo da Düsseldorf a Liegi, la città belga che ha dato tra gli altri natali al più francese dei belgi, Georges Simenon, lo scrittore, inventore del personaggio del commissario Maigret. Una tappa che gli organizzatori definiscono pianeggiante e dunque con ampia probabilità a trionfare sul traguardo di Liegi quest'oggi sarà un velocista. Il gruppo dopo 6 km e mezzo affronterà però la prima salita di questo intenso Tour de France, la Côte de Graffenberg, 1.4 km al 4,5% di pendenza media. Dopo 144 km percorsi interamente in terra teutonica, il Tour entrerà in Belgio, nella provincia di Liegi, e da lì il gruppo incontrerà Plombières, la cittadina particolare perché è definita la città delle tre frontiere, visto che al suo interno c'è un punto in cui si intersecano il Belgio, i Paesi Bassi e la Germania. A 20 km dall'arrivo, ecco la seconda salitella di giornata, la Côte d'Aulne, 1.3 km al 4.7% di pendenza media. Da lì in poi tutta pianura fino al traguardo di Liegi, dove con amplissima probabilità si daranno battaglia le ruote veloci. I favoriti di giornata non possono dunque che essere i tedeschi Kittel e Greipel, ma anche l'inglese Cavendish, non dato in piena forma, ma difficilmente si sottrarrà alla bagarre negli ultimi metri di corsa. Altro corridore favorito potrebbe essere il francese Arnaud Demar e ovviamente attenzione a Peter Sagan, che potrebbe cominciare a raccogliere punti preziosi per la maglia verde anche solo attraverso un piazzamento. L'appuntamento è a domani con la presentazione della terza tappa del Tour de France. Invito tutti a seguire il post tappa, ovviamente su Bidon, e a cliccare sulla mia pagina Facebook, la doppia P. Au revoir! E grazie a Pietro per il suo resoconto sulla tappa che verrà. Dunque, Filippo, chi sono i favoriti oggi? Sei d'accordo? Sei d'accordo, velocisti, o può succedere qualcosa di strano che eviti la volata di gruppo? Generalmente così all'inizio del tour è difficile evitare la volata di gruppo. Il percorso, nonostante sia ridiazzeggi, è appunto spiccola da tutte le grandi difficoltà, ma d'altronde ormai anche le 10 battonine di genere arriva in volata, per cui c'è poca differenza. E penso che vincerà un velocista, penso che vincerà Kittel, molto probabilmente, visto quello che ho visto ieri. Ho visto molto bene anche Degenkolb, che però insomma è una volata di gruppo, non lo so. Magari non ci arriva il gruppo così compatto, perché qualche difficoltà leggera lungo il percorso c'è, e da quanto ho capito dovrebbe piovere anche oggi. Dovrebbe piovere anche oggi, quindi speriamo che le nonne dei corridori abbiano consigliato di stare attenti a sallisciare. Io sicuramente da quelle parti lì, tra l'altro, insomma, ci ricordiamo già in passato degli arrivi in cui la pioggia ha comportato dei problemi. Io voglio sperare che qualcuno provi anche a fare un attacco. Sai, oggi per tanti c'è anche una possibilità di prendersi la maglia gialla. Certo. I tacchi sono ancora corti, ci sono gli abboni e non devono essere per forza solo i velocisti. Il mio sogno purtroppo è in squadra con Kittel, per cui non accadrà, ma oggi ci sarebbe un finale in cui mi piacerebbe molto vedere Matteo Trentin all'attacco, magari in gruppe. Beh, sarebbe bello, Trentin mi piace. Dalla testa ha un ottimo sprint finale, per cui se si buttasse in un gruppetto di 6-7 corridori, che sarà impossibile che vada via, potrebbe essere... Perché no? Perché no? Io invece, Angelo, non me l'hai chiesto il pronostico, te lo faccio lo stesso. Io dico Greipel oggi, perché Greipel ho visto... No, Greipel ha preso il cuore a tutti col video. Esatto, il video travestito da scimmione, da gorilla, fantastico. Non me l'aspettavo così spiritoso. No, ma in realtà lui lo è molto. E questo ci permette un attimo, il riferimento al video di Greipel, di tornare un secondo al discorso dei social, perché ho dimenticato di ringraziare chi per noi di Bidon spulcia negli account dei vari corridori e dei giornali, che sono in particolare Filippo Pelacci, Paolo Bontempo, Riccardo Spinelli ovviamente e Francesco Bozzi, che conoscete già di Bidon. E ieri soprattutto hanno fatto più fatica, perché ieri Twitter è intasato dai commenti, soprattutto insulti a Paolo Bonolis, che commentava il concerto di Vasco Rossi e copriva le canzoni di Vasco Rossi. Però nonostante questo i nostri amici sono riusciti a trovare i tweet sul Tour de France. Il tema di Vasco Rossi, tu l'hai visto, Filippo, Vasco Rossi? Assolutamente no, ma volevo dire, non sapevo neanche questa vicenda, perché ieri non sono stato a casa e non ho seguito. Credo che darei una medaglia al valor civile a Paolo Bonolis, che ha coperto delle canzoni di Filippo, a livello nazionale. Sempre diplomatico, così sì. 240.000 spettatori abbiamo detto che... Noi volevamo avere ospite Vasco Rossi nei prossimi giorni, ma non lo sarebbe venuto qui a Cagliari a parlare con noi di ciclismo, invece. Un'altra cosa... No, mi è arrivato adesso un messaggio a Vasco Rossi, il suo commento al tour. Che cosa dice? Dice, sulla crono di ieri, dice... dai, questo... Io mi dissocio. Tornando ai tweet, volevo segnalare che sono stati ben due spuffo in una sola rubrica di Twitter al primo episodio, ovvero abbiamo scoperto che esiste una serie televisiva che Leonardo Piccione non guarda, e già questo è uno... Ma guarda, ce ne sono tante in realtà. Ma soprattutto abbiamo visto la faccia di Superbia, io non avevo mai visto la faccia di Superbia in 20 anni, 30 anni, 60 anni di carriera, cioè quest'uomo si piazza sempre ma nessuno l'ha mai visto in faccia. L'abbiamo visto. Un'immagine nuova, oggi vedremo un'altra grande immagine nuova, perché vedremo la Sky in testa al gruppo. Ah sì, il tour si preannuncia con immagini mai viste. È un tour ricco di sorprese. Ricco di sorprese. No, c'è anche una cosa che non abbiamo mai fatto sulla Sky. Dire che Geraint Thomas, che ha vinto, in realtà è molto forte. E ragazzi, Geraint Thomas e tutti gli altri della Sky, né altre squadre, sarebbero dei capitani. Ah sì, è vero, questa è una frase questa frase non l'ha mai detta nessuno. Vera in parte, cioè, anzi, del tutto vera, però la dicono tutti, la diciamo anche noi. Altra cosa, vedo che qualcuno sta commentando su Facebook. Anche oggi stiamo ignorando i vostri commenti. Leggo soltanto uno, che è quello di Marcello Savarino. Dice, tour già finito? Mi sembra che abbiamo già risposto. No, altrimenti chiudiamo la trasmissione. Oh Marcello, e andiamo al Marcello. Mare. Andiamo al Poetto da domani mattina, Angelo. L'obiettivo è andarci comunque anche l'obiettivo stasera. L'obiettivo è andarci comunque, però ci andiamo anche al mattino. Dunque, ma Marcello, direi che comunque il tour è tour. Il tour è tour. Sì. Va bene, Filippo, grazie, ci sentiamo domani mattina. E noi continuiamo per la rubrica più importante del tour. Ciao Filippo. Ciao a tutti, ciao soprattutto a Paolo Bonoli. Ciao Paolo, ciao Filippo e ciao a tutti. Dunque adesso continuiamo con la rubrica più emozionante del nostro Buongiorno. Più emozionante secondo te? Che ha avuto molto successo. Si è già candidata a vincere il futuro premio Nobel per la letteratura. Adesso ho capito sì, chi è. No. Sì, sì. Abbiamo la nostra Fiammetta Ruglio, la nostra inviata, che oggi è a Liegi e ci presenta un bellissimo, commoventissimo resoconti Ocra. Oddio. La solita musica, bellissima. Questa storia inizia dove il fiume diventa cielo e il cielo si fa terra. La terra non è solo terra, ma è anche fiume, che non è solo fiume ma terra. Fiume e cielo. Il cielo plumbeo del nord. Il cielo che François si porta nei suoi occhi lacunosi e attoniti. François, impavido e ingegnoso, come un airone belga, decide di sfidare le leggi degli uomini che non sono scritte, perché non esistono, e mette tutto il suo entusiasmo in un progetto inconciliante, un disegnino accartocciato e nascosto nelle sue tasche generose. François vuole costruire il primo battello a pedali di Liegi per navigare felice sulla Mosa alla ricerca di aironi. Forza, François! Credi nei tuoi sogni, investi, lavora, costruisci il tuo sogno. Ma, ahi lui, la società degli uomini non ha pietà per chi non ha idea di quello che sta facendo. E meno male. Il battello a pedali esiste già, e il mesto pedalò. Il progetto di François è totalmente inutile. François fallisce, perde la casa, perde la moglie, perde l'entusiasmo e perde anche un dente. Ora, negli occhi spenti e tristi di François ci sono adesso quintali di pedali e catene di bicicletta e la certezza che la terra non è fiume. Ma anche se fosse stato un fiume, su quel fiume ci sarebbero già troppi pedalò, François. Giustamente. Mentre una calda lacrima gli bagna il viso sul fiume che François vorrebbe fosse un fiume di birra. Anche noi. Vola un airone, attonito. Brava, questo è il mio applauso, brava Fiammetta. Ma allora, intanto due cose, questo François mi ricordava terribilmente il Franz di ieri, delle salsicce. Posso dire una cosa, tu che segui tanto le serie, non capisci quanto è importante essere rincuorati dalla presenza di personaggi che in qualche maniera conosciamo già. Questo lavoro di Fiammetta è bellissimo. Io continuo ad avere delle riserve sul lavoro di Fiammetta, però. Guarda, posso dirti una cosa? Quando fai così, sei attonito. Te lo devo dire. È un insulto gravissimo. Sei un attonito. Basta, sei un airone attonito, fatelo dire. Gli aironi di Liegi. Vabbè. Ci sei stato mai a Liegi? Non ci sono stato mai, però. È pieno di aironi. Qui a Cagliari siamo pieni di gabbiani. Tra l'altro c'era un consiglio tra i commenti che ti consigliava i tappi per le orecchie. No, non li sopporto, c'ho il terrore, i tappi, ho paura che mi entrino dentro. E allora devi conviverci, i gabbiani sono Cagliari, va bene? Comunque, anche per oggi abbiamo finito, vi lasciamo alla vostra giornata, alla vostra vita, speriamo più divertente possibile. La nostra? Vabbè, la nostra è dedicata al dio Tour de France, quindi siamo delle vestali di questa divinità. Quindi vi lasciamo alla visione della tappa di oggi, vi lasciamo a tutto quello che dovete fare. Alla rubrica pomeridiana di Bidon con il racconto al termine della tappa. Assolutamente, noi ci diamo appuntamento domani alle 11, mi raccomando, se ne avete voglia lasciateci i vostri commenti, diteci se la trasmissione vi è piaciuta, se ci sono delle cose perfettibili, noi siamo disponibili a migliorarci. Forse. Se non siamo troppo attoniti, ci miglioreremo. Ci proviamo. Dunque, salutiamo con una bella frase, una di quelle frasi che userebbe anche Paolo Bonolis. Cosa possiamo dire? Una di quelle frasi a effetto. Ieri abbiamo detto vive il tour. Vive il tour. Banale. Non ci siamo preparati. Sei un gabbiano attonito. Viva la Francia. La Francia. Non si arriva manco in Francia. Fermi tutti. Belgio. Il tempo di Tony Martin. È arrivato adesso. È arrivato adesso. Va bene. Ha vinto? Non ha vinto. Grazie a tutti. Ciao. Buona giornata. Ci vediamo domani. Viva la Francia. Vino Zandegu. Ciao. Vieni al Tour de France.